Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. So che non dovrei dire quello che sto per dire. So che questo mi costerà disprezzo, emarginazione, rabbia, ma non posso fare a meno di osservare che anche quei bei portantini con i gattini e cagnolini, tanto carini, creano un clima di simpatia e di attenzione attorno alla persona che se li porta in treno e se li mette fra le gambe e che ogni tanto apre e fa uscire la bestiolina, emanano molte volte un odore che non è per niente gradevole. E questo ho provato a far notare alla passeggera seduta davanti a me, che probabilmente ne aveva due o tre di gatti dentro quella scatolina, ma gatti che avevano girato il mondo. Io avevo una grande insofferenza per l'Italia e stavo cercando lavoro all'estero in quel momento. E quello ti possiamo capire in tanti. E stavo cercando lavoro in Inghilterra, tanto per renderti un po' chiara la situazione. E lui è andato alla posta, mi ha detto, io vado. Che dici? E io ho detto, vabbè, però in due ci abbiamo tre gatti. Ah, i gatti li hai portati in Giordania? Certo. Certo, perché in realtà, capito, noi non siamo persone completamente normali. Si sono adattati i gatti. Sono tre bambine, sono tre gatte. Si sono adattate, dico. Sì, allora fai conto. Devono la prima girare settimana... velate, come funziona? Qual è la differenza della vita di una gatta, no? Allora, la vita di una gatta in Giordania, loro vivono in casa adesso, perché mentre a Trieste noi abitavamo in un ultimo piano con il tetto. Cioè, secondo un semimassardato, quindi le gatte erano abituate a girare per i tetti. E qui la casa è un appartamento al terzo piano, quindi possono uscire in un balcone, non nell'altro, perché c'è il rischio che vadano nella casa dei vicini, e quindi vivono in casa, però sono tre, si fanno compagnia, hanno 17 anni, 6 anni e 3 anni e mezzo. Vabbè, adesso, a parte la vita delle gatte che è cambiata di poco, non posso andare. La vita delle gatte è cambiata, questo ti volevo dire, perché la prima settimana il muezzin fa vari canti notturni e le gatte disturba a un certo ora, come il muezzin cantava, le gatte impazzivano. Adesso può cantare a qualunque ora del giorno, della notte, dormono. Si sono abituate al muezzin. Vabbè, questo già. Sì, è un po' come la campana in Italia, no? Vabbè, è un adattamento culturale. Per le gatte sì. È stato più facile. Per te invece com'è stato l'adattamento? Per me è un po' più complesso, nel senso che... Cosa cambia di radicale nel tuo quotidiano? Nel mio quotidiano, intanto l'abbigliamento. Come va in giro? Ma, all'europea, perché sono europea, io sono bionda, come vedi, di capelli, quindi non è che possono confondermi, però che sono coperta, non uso gonne corte. Tu dici, vabbè, c'è 50 anni, dove vai, dove vanno le corse? Sì, certo. Mi sono assolutamente adeguata ai costumi. Adesso in questo momento è meno difficile, perché d'inverno d'estate fa molto caldo, perché a Manna a 1000 metri, quindi fa un caldo assurdo, allucinante. Però tu devi essere abbastanza coperto, ti puoi mostrare le ginocchia durante il Ramadan con la manica lunga e anche è coperta fino alla caviglia, questo per il mese. Quest'anno era luglio, ma è il testa? Ramadan no in testa non può andare normale, non c'è sì no vabbè. Ma io sono europea, cioè a me è concesso molto di più di quello che è concesso a chi abita qui. cioè a chi è nato qui, a chi è... Ecco, ma come ti sei inserita nella società locale? Tuo marito avrà dei colleghi del posto, vi frequentate con le famiglie? Cioè le altre donne, parli con le altre donne? Assolutamente sì. E che ti dicono? Che ti raccontano? Ho tante amiche giordane e, cosa e ho tante amiche italiane. Le italiane non mi interessa, le giordane cosa ti raccontano? Le giordane sono molto diverse a seconda della religione, perché le musulmane vivono una realtà che è la loro, che è molto diversa dalla mia. Cioè, mi è mai capitato di essere a cena, invitati a cena a casa di un collega, e mi sono trovata chiusa in cucina con le donne e gli uomini nel salone, ovviamente. E tuo marito non diceva nulla? Era normale? No, non è possibile dire, cioè io ho cercato di dire, ma forse insomma non è per me, io non sono adatta a questa cosa, però devo dire era appena arrivata. Ti hanno messo in cucina e le altre hanno naturalmente faccio parte. Ho detto mai più, quando adesso quando c'è un invito a cena chiedo prima. Se devi stare in cucina puoi andare a mangiare insieme agli uomini. Sì. Ecco, però questo vale soltanto, devo dirti, no, questo posto non era nemmeno in Amman, era fuori, cioè non è neanche un'abitudine della città. Ma a me non scandalizza, comunque... vale, io sono convinto che in Italia esistano realtà in cui ancora le donne mangiano separate dagli uomini nelle campagne, esistono, perciò quindi... No, ecco, io voglio dire, non do delle attenuanti alla cosa, io quella sera mi sono sentita terribilmente a disagio, come tu puoi immaginare, però... la realtà era che noi non eravamo in Amman, eravamo fuori in paese, in un paese più piccolo. Dove così era alla fine, non si poteva questa cambiare. Gente più di campagna, non sono cittadini. E in Amman normalmente se andiamo a cena ceniamo tutti insieme, normalmente non si pone problema di... Vabbè, però ti ha dato un aspetto. Invece parlando con le signore di Amman, le donne di Amman... Ci sono dei punti di vista differenti rispetto alla regola esteriore, dei punti critici, dubbiosi rispetto a un mondo che in fondo sembra andare in una direzione diversa rispetto al mondo che persegue comunque l'integralismo come un punto d'arrivo possibile? Purtroppo io credo di no, cioè credo che indipendentemente dalla religione, io conosco molti cristiani perché qui c'è comunque una comunità cristiana ortodossa importante, credo il 6% della popolazione di Amman, quindi sono 2 milioni, cioè, quindi è parecchia gente. E, diciamo che le regole sono abbastanza strette, cioè tipo se rimani vedova normalmente la tua famiglia ti riaccoglie in casa con i tuoi figli, cioè non c'è la libertà di poter continuare una vita da sola perché non è ben vista. Ecco. Questo vale per tutto, però, anche per le cristiane, per tutti vale. Assolutamente, sì, non cambia, sì, non è un problema, non è che è una cosa che uno è obbligato poi a fare, no? Però sta meglio se tu in casa hai tua sorella, tua mamma o la tua vecchia zia, sembra meglio, forse anche in Italia, cioè forse in Sicilia 20 anni fa era così, non lo so. Vabbè, diciamo ormai se questo sistema è radicato, se non ha in sé spinte che lo mettano in crisi. Senti, io direi che siamo arrivati al punto d'arrivo, almeno per me. Intanto sono molto grato del racconto. Grazie, ciao, ciao, a presto. Grazie a te, ciao. Treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ormai ho fatto una scorpacciata di viaggiatori seriali. Sono quelli per cui il treno è il supporto poetico del loro immaginario, dei loro ricordi, delle loro vite passate, che in ogni sferragliar di rotaia hanno legato il ricordo di un palpito, di una emozione, di una persona che magari mai più rivedranno o forse manco hanno mai visto. Come il romantico signore, siciliano puro sangue, che mi vedo davanti e che mi racconta che lui nel treno ha passato la parte più importante della sua vita. Io sono funzionario in un'azienda di servizi. Ma lei si è fatto un'infilzata di treno per quanti anni? Allora, io sono andato via dalla Sicilia nell'83. Poi per almeno i 3 anni successivi, siccome lavoravo nell'Alto Lazio, lavoravo nel settore delle costruzioni delle centrali nucleari, e però avevo troppa nostalgia di casa, per cui quasi tutti i fine settimana tornavo a Catania. Quindi si faceva un Roma-Catania a settimana per quanti anni? Civitavecchia-Catania. Ritorno in un solo fine settimana, pensi lei. Quante ore? 12 ore di treno? Quanto sarà stato? 12 se va bene, ero dalle 12 alle 14. Quindi lei partiva quando? Il venerdì pomeriggio? Sì, partivo il venerdì pomeriggio, poi a Termini trovavo forse non c'era neanche l'Intercity, forse sì, non ricordo, comunque quello che c'era, no? E si passava la notte in treno, la mattina all'alba si traghettava sullo stretto di Messina, perché lei, come lei sa, il treno proprio si infila fisicamente dentro il traghetto, e poi arrivava a Catania verso le 10 del mattino. Ma stava in uno scompartimento normale, c'era la cuccetta, il vagone elettrico? Ah, no, cuccetta troppo lusso. Quindi seduto sullo scompartimento? Seduto non sempre, perché quei treni erano molto pieni, per cui spesso me li facevo in corridoio, spesso anche in piedi in corridoio. 12 ore però in piedi per stare a casa? Poi quanto stava a casa? Mezza giornata? Un giorno. E ripartiva il giorno dopo? E ripartiva il giorno dopo, per essere al lavoro il lunedì mattina. Quindi praticamente il suo weekend era in treno, essenzialmente in treno. E infatti la bellezza di questo era solo questo, perché era talmente fugace il tempo passato a casa che poi alla fine non avevi più, il gusto di stare a casa, no? Era tutto sull'attesa di andare a casa praticamente. 12 ore di speranza di arrivare a casa, vedere le persone, risentire l'odore di casa e poi ripartire subito. Sì, l'odore di casa, l'odore e il sapore di un arancino, vedere gli amici. A quei tempi mi ero appena separato, quindi non avevo carichi familiari. Non c'era nemmeno una donna da rincontrare alla fine del binario? Assolutamente no. Alla fine dei binari, la donna era nei binari, sui binari. Ecco, com'è questa storia? Un'avventura. Cioè c'era sempre l'illusione che di trovarsi vicino a una passeggera con cui poteva nascere una storia? Sì, la passeggera era il dio del treno, te la facevo trovare, però il dio del treno a volte era generoso, no? A volte ti trascurava, per cui ti capitava una monaca, un prete, un alpino, dei pensionati. E come funzionava il rituale? No? Lei c'era la preghiera al dio del treno, oggi fammi sedere vicino a una bella gnocca che possa fare 12 ore con me vicino, fare amicizia, conoscerla, amarla e via dicendo, e poi si affidava. Sì, la preghiera. E poi che quando si saliva in treno uno... C'è un momento in cui passi sugli scompartimenti a capire dove ti puoi piazzare. Sì, no? Non erano i tempi che c'erano i posti assegnati, uno si sedeva dove capitava. Assolutamente no. Per cui bisognava essere molto abili in salita a individuare la zona del treno, perché erano talmente affollati che poi non avresti più potuto cambiare posto, considerato che avevi anche una valigiona a seguito. Una volta trovato il posto, per 12 ore non si schiodava da lì? No, era rarissimo. Perché questi sono treni che partono la sera per Reggio Calabria, per Catania, per Siracusa, per Palermo, no? Quindi è ragionevole che nessuno scenda in piena notte da qualche parte, no? Quelli che eravamo all'inizio saremmo stati alla fine, più o meno. E in percentuale quando avveniva che il dio del treno esaudiva la sua preghiera? Beh, è successo, qualche volta è successo, ma il gusto della vicenda non era... la preda, anche perché non era un cacciatore di donne, però era un gioco molto bello, no? Beh, un cacciatore no, però volta. Uno speranzoso nell'incontro. Ma guardi, sì. Nicoletti, ero appena separato, ero giovanissimo, eravamo splendidi, no? Eravamo giovani e belli, adesso non più, ho 62 anni adesso. Vabbè, mica è un'età in cui uno è putrefatto a 62 anni. Ogni età c'ha il suo splendore. Averne 30 è meglio. Sì, sicuramente, anche 20 meglio ancora. Quindi, vediamo se c'è qualche ricordo però di tutti questi viaggi che merita di essere raccontato, di incontro. Beh, sì, ce n'è uno molto, molto divertente, se vuole. Che c'era una ragazza di Roma che andava a trovare il fidanzato a Reggio Calabria. Fidanzato ufficiale, con... suocere e tutto quanto. Fidanzato calabrese? No, era romano, ma era imbarcato sulle ferrovie dello Stato, sui traghetti sullo stretto di Messina. Ah, quindi e quello lei che... ogni tanto lo andava a trovare. No? E il viaggio di andata nacque una simpatia. una notte insonne, mi ricordo, perché stessimo a chiacchierare. Abbiamo diviso i panini, perché a quei tempi c'erano i panini, non ci potevamo permettere molti lussi. Quindi la condivisione dei panini, della Coca-Cola. E che vi siete detti in quella notte di chiacchiere sul treno? Il tempo in treno si dilata, nel senso accorcia. Perché se noi incontriamo degli estranei, oggi ci sono il remore, c'è pudore, non si parla. Ma in treno c'è una magia che si riesce a raccontare tutto, si riesce a raccontare la propria vita, i propri desideri, i propri sogni. È perché è un luogo fuori dal mondo e quindi è una realtà parallela, uno non se ne rende conto. Ma secondo me c'è anche una sorta di, come dire, di atmosfera che forse quella persona non la incontrerai mai più, no? Per cui si accelera l'abbassamento del pudore, no? Le paradie del pudore vengono rapidamente abbattute. E cosa le ha detto di spudorato questa ragazza? No, di spudorato assolutamente niente. Ci siamo raccontati le vite e abbiamo capito che avevamo delle emozioni in comune, ecco. Per cui io non l'ho rincontrata anche sul viaggio di ritorno, perché coincidevano i nostri rispettivi treni. Lei si fermò poi a Reggio Calabria per incontrare il suo fidanzato ufficiale e ci siamo dati un mezzo appuntamento su un treno che il mio partiva da Catania ma il suo da Reggio. Sarebbe stato anche difficile incontrarsi, però poi è avvenuto questo. E quindi diciamo che lei all'andata era fidanzato con uno e al ritorno con un altro. Ma vi siete fidanzati in treno? Fidanzati è un termine eccessivo. Vabbè, vi siete... Diciamo che poi ci siamo frequentati a Roma per un po'. Ecco, vi siete messi insieme, come si dice così. Sì, sì, è arrivato al punto che sono andato anche a casa sua una sera con i suoi genitori, suo fratello. Ha fidanzato in casa proprio? Sì, lei mi portò a casa sua, un po' poi dopo quella volta io feci una rapida fuga. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Quindi diciamo che il ferroviere che stava in Calabria era ormai una cosa finita, morta. Beh sì, lo sarebbe diventato da lì a poco. Anche questa ragazza viaggiava in treno ma sperava di fare l'incontro che le avrebbe cambiato la vita. No, o semplicemente il destino che ci pone davanti delle cose da vivere, senza che ci siano dei piani prestabiliti, no? Come mai è finita poi la storia? Ma perché non c'erano le condizioni. Lei voleva un marito, lei non era intenzionata. Beh sì, volevo qualcosa di immediatamente ufficiale, serio e strutturato. Voleva stringere, ecco, lo so. Non ero pronto per questo. È il vecchio problema. Ero separato da 2 o 3 mesi. Sicuri, Nicoletti. Ma lei sarebbe bastata una storia d'amore. E poi ci sono stati altri incontri felici in questi anni? Sì, c'è stato qualcos'altro di incontri felici, ma soprattutto quello che è stato bello in questi... con gli occhi di oggi, vedere come si viaggiava prima, è molto bello ricordare, perché non c'erano tablet, Nicoletti, non c'erano telefonini. C'erano libri a bordo, forse c'era Novella 2000, oggi Gente, sa quelle riviste popolari, no? Sì, infatti è vero, nessuno si rende conto come possa essere un viaggio in treno senza il wifi delle ferrovie dello Stato, senza il telefono, senza il tablet con il filmino, senza la maniera di collegarsi con fuori. Una volta in treno si era fuori dal mondo, finché non si arrivava. Ma certo, bisognava essere molto rispettosi degli altri per fare un viaggio così promiscuo, così lungo e così... senza possibilità di alternative come quelli che racconta lei, partire la sera da Civitavecchia, viaggiare tutta la notte, starsene seduti accanto, poi all'alba traghettare, poi rifare ancora un altro pezzo di treno. Occorreva, diciamo, una regola condivisa di vivere assieme, sennò sarebbe stato impossibile. Era un microcosmo di una sorta di convivenza, perché quando io offrivo il mio panino mi veniva offerta una pietanza preparata da amorevoli mani di non so chi. Era una condivisione del cibo, che è bello questo. Cioè, se io condivido il cibo con te è accogliente. Oggi nessuno più lo fa. Ma lei se l'immagina che su un precerozzo uno le morla un panino? No, impossibile. Assolutamente. Assolutamente. Esatto. Il panino con la frittata. Lei si portava il panino con la frittata? Io sono un ottimo cuoco, per cui cercavo di portare con me dei panini succulenti. E ne portavo anche qualcuno in più. Perché a quei tempi se ne portava uno in più, perché si offriva. Era facile offrire qualcosa del nostro cibo agli altri. Non era così scandaloso come oggi, no? E lei con cosa l'ha sedotta quella ragazza? Si ricorda? Cos'era? Il panino con la frittata? Quella ragazza lì con cui ha passato questa notte di condivisione di panini e poi c'è stata una storia. Con la frittata, per l'appunto. Con la frittata, con le cipolle anche, perché no? No, evitavo per questioni di... Beh, certo. È logico. Come la immagina. La cipolla non aiuta l'intimità, diciamo. E poi il panino con la frittata ammorbidisce il panino, perché rilascia l'olio di cui è stato fatto. È un bel panino unto, di quelli che si vanno giù bene. No, non unti. Non unti, però succulenti, dai. Succulenti. Va bene, mi fa piacere, è stato un colpo d'occhio sul viaggio del passato, ma i viaggi contemporanei a me ci impongono di scendere velocemente quando arriva il momento di cambiare treno. La ringrazio, la saluto, al prossimo incontro. Grazie. A presto. Nicoletti, grazie molto. Grazie a lei, torni al suo lavoro, grazie. When they kick at your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? Il treno va. Se c'è una cosa che non sopporto, sono le persone che parlano di salute in treno. Sono soprattutto quelli che hanno figli o sono le persone molto anziane. Devo dire che l'argomento di conversazione che mi ha fatto passare ogni appetito e ogni voglia di entrare soltanto di soppiatto nel vagone ristorante, anche soltanto al bar, a prendere le noccioline, è l'herpes. Due persone che parlano di herpes, di rimedi naturali per l'herpes. Una dice che tutte le sere vaporizza olio in tutta la casa e mangia tutte le mattine la frutta perché non le verrà per questo l'herpes. Un'altra prende la radice di zenzero, la mischia con l'aglio, con limone, con l'olio e se lo spalma sul labbro. E qualcun altro non so cos'altro faccia. E guardavo con le bocche tumefatte e guardavo quella sorta di escrescenze mentre parlavano e mi veniva in mente la mia fanciullezza quando ero costretto a fare dei sacrifici innominabili per riuscire a compiacere la mia famiglia che usciva dalla guerra e che mi costringeva a mangiare cose che a me facevano vomitare, ma per loro erano sanissime e dovevo ricordarmi che avevano fatto la fame. La prima tranche della mia vita la circoscrivo nel periodo che va dalla nascita alla fine delle scuole elementari. La quinta l'ho fatta nel 1965. Mi ricordo bene quasi tutto delle elementari. Forse proprio quel periodo segna l'appartenenza della mia generazione a una fase arcaica della storia contemporanea che a me sembra impossibile avere vissuto ed essere ancora in grado di parlarne lucidamente. Come mai non sono ancora morto, o perlomeno in preda alla demenza senile, se io ho una parte della mia vita intrisa nell'ultimo strascico cruento della Seconda Guerra Mondiale? Forse dipende dal fatto che se la guerra è terminata nel 1945, per i vent'anni successivi la mia generazione ne restò fortemente impressionata come una lastra fotografica che si becca una sbaffata di luce. La guerra è stata una realtà ancora presente per quelli della mia età, anche molti anni dopo la sua fine. A parte racconti familiari sui bombardamenti, oscuramenti, atrocimenti vari, bisognerebbe aprire una larga parentesi su di noi, forse concepiti sul tavolo di un cucinino di formica, davanti a un televisore acceso con Mike Buongiorno, almeno quelli nati da settembre in poi, ma forse pure qualche settimino, di certo tutti allevati con l'incubo che durante la guerra chi non combatteva fosse ossessionato dal pensiero fisso di trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Pensai anni più tardi a quell'assillo alimentare durante una di quelle vacanze massacro che si facevano negli anni 70. Autostop, tenda, pochissimo denaro e lunghe serate passate a descrivere con i compagni di viaggio cosa ci saremmo fatti cucinare dalle rispettive madri al nostro ritorno. È chiaro che tale volontario supplizio estivo poteva infliggerselo solo una generazione allevata sull'epica familiare di stenti, fame, tessere annonarie, borsa nera. Erano i motivi dominanti per cui dovevamo sentirci in dovere di mangiare, se non altro per compensare la fame che avevano patito i nostri genitori. Solo molti anni dopo sentiremo parlare di disturbi alimentari, di anoressia, di angoscia per l'ingestione da cibaria. Era un segno dei tempi, almeno per noi, lo spauracchio della guerra e della carestia aveva creato un costante ostacolo alla possibilità di mettere in rapporto il cibo con il desiderio di morte. Piuttosto che la concupiscenza della dissoluzione, fu il fascino dell'indistruttibile a far parte del nostro più tenace imprinting. Non fummo allevati con l'idolatria del naturale banalmente biologico. Si pensi che tra i miti alimentari della nostra epoca nulla pretendeva parentele con tali modelli. Noi amavamo la minestra fatta col dado, Ne riconoscevamo l'origine organica unicamente dal mini frammento di prezzemolo che galleggiava sulla superficie dello pseudo consommé, incorporato sapientemente nel cubetto che era già l'anticipazione domestica del cibo in pillole degli astronauti, mito subgastronomico che tutti pensavamo avrebbe presto sostituito ogni altra forma di alimentazione. Forse perché mi ero appena lasciato con il signore siciliano che lavorava in imprese spaziali, che mi sono ricordato che in realtà lo spazio era il luogo dell'immaginario più vivido di me bambino. Eravamo circondati da piccoli robot, sognavamo le astronavi, sognavamo l'uomo che sarebbe da lì a poco andato sulla Luna, sognavamo i cagnolini che mandavano sulla Luna, almeno quando li mettevano dentro le scatoline con delle gabbiette se li portavano in treno. Il gioco d'adesco più frequente di me bambino era fare delle palline di midolla di pane, metterle in fila sul piatto e immaginare che fossero le famose pillole degli astronauti che avrebbero preso presto il posto dell'odiata fettina che puntualmente premasticavo, smaltivo sotto il tavolo, boccone dopo boccone, dandola ai gatti, che a casa non mancavano mai. Era pure l'epoca in cui i nostri appetiti erano stimolati soprattutto da quegli oggetti avvolti nella stagnola che venivano chiamati formaggini, prodotti ad alto profilo gastroingegneristico, almeno a detta dei vecchi benpensanti luddisti che preferivano la cacciotta comprata a peso. Di certo girava qualche voce che avrebbe dovuto allarmarci, ma erano tutte talmente paradossali, come ad esempio che alcuni formaggini fossero fatti con le unghie, che alla fine stimolavano in noi quel meraviglioso senso di azzardo che ce li faceva sembrare addirittura più buoni. Altra induzione alla nostra progressiva idolatria per il sintetico erano le polveri che trasformavano l'acqua del rubinetto in acqua da tavola, un sortilegio di retaggio autarchico. Si usava un'apposita bottiglia con il tappo ermetico, quelle con il ferretto ad incastro, e la preparazione dell'acqua frizzante di fronte ai bambini in attesa con il bicchiere in mano assomigliava a quella di una molotov prima di un assalto della polizia. La miscelazione era interdetta a donne e minori, solo uomini ardimentosi potevano far scivolare nella bottiglia piena d'acqua fino all'inizio del collo, con precisione e misurata lentezza, prima la polverina della bustina rossa, poi quella contenuta nella bustina blu, che rappresentava l'innesco alla generazione repentina delle bollicine. Bisognava quindi chiudere velocissimamente la bottiglia, sennò sarebbe schizzata fuori tutta l'acqua in ebollizione. I più sventati la capovolgevano per accelerare il processo idrogassoso. Le donne di casa si chiudevano le orecchie e imploravano di non insistere in quell'innaturale maneggio. Giravano voci leggendarie di bottiglie esplose sotto gli occhi frantumati dalle schegge di vetro. Così come ci sembrava buonissima la carne in scatola sotto gelatina, perché la vedevamo a carosello, e quando la madre della pubblicità la portava in tavola erano tutti raggianti di felicità. Quel cilindro di materia rossastra e tremolante aveva perso ogni idea di forma ed essenza della bella mucca al pascolo stampata sulla latta della scatoletta, e forse proprio per quello che l'apprezzavamo. Andavamo pazzi anche per i presidi voluttuari che ci accompagnavano in istanti paradisiaci come la maionese in tubetto, la pasta d'acciughe, lo sciroppo di frutta da allungare con l'acqua, tutti i capolavori dell'immaginario gastronomico che reinterpretava pesci, salse, prodotti della terra. La giovane e bella architetta è seduta di fronte a me. Ha sciorinato sul tavolino tra due sedili tutti i suoi materiali e studia il suo progetto. Sicuramente sarà perfetta la ristrutturazione di quell'attichetto a cui lei si sta applicando. Ma c'è qualcosa in lei che sembra quasi voglia comunicarmi l'indicibile. Ammesso che io potessi captare le sue onde cerebrali, sono convinto che questo lei mi direbbe. Mi chiamo Laura, ho 30 anni e faccio la redattrice. Ho una storia di amore importante alle spalle, anzi la sto vivendo tuttora con mio marito, una storia che dura da 13 anni e da 3 sono sposata. Non ho mai in questi 13 anni tradito mio marito fisicamente, poi chiaramente qualche insomma attrazione per altri uomini l'ho avuta, ma si è fermata lì. Ho deciso di finire i lavori a casa mia 2 mesi fa e sono capitati 2 ragazzi, uno dei quali ha catturato la mia attenzione in maniera particolare. Io per mestiere sono solita incontrare più operatori, quindi voglio dire ero abituata ad avere a che fare con muratori, elettricisti e gente di questo tipo, e chiaramente tengo sempre le distanze perché il mio lavoro è quello di risere, e quindi non mi posso permettere di, come dire, entrare troppo in confidenza con le persone. So che mi sto continuamente guadagnando l'inferno del disprezzo dei miei ascoltatori, ma spesso osservo giovani e belle architette con i loro tacchi vertiginosi che saltellano tra i calcinacci e sono l'oggetto del desiderio più concupito da robusti e sudati operai che vengono da paesi dell'est. Ma molte volte succede qualcosa che probabilmente non era nei piani, non era scritto nel progetto, e anche in questo caso questo mi sembra di cogliere dalla bella architetta che è assorta di fronte a me. Piano piano, di giorno in giorno, si è sempre di più avvicinato a me, finché niente, è scattato, insomma, dopo una quindicina di giorni che lo avevo a casa, insomma, è venuto in casa. E la prima volta che ci siamo baciati, lui mi ha seguito in cucina per prendere dell'acqua, quindi una scusa banale perché chiaramente fuori c'erano altre persone che lavoravano, e mentre io stavo fra l'altro preparando il caffè, lui si è avvicinato alle spalle e mi ha cominciato a baciare. Io cercavo di allontanarlo, però insomma è durata ben poco questo tira e molla, perché poi alla fine mi sono lasciata andare. È completamente diverso da me. Lui ha cominciato a lavorare all'età di 13 anni, è andato via di casa a quell'età lì, quindi insomma si è fatto le sue belle esperienze. Ha frequentato, diciamo, personaggi, persone, ambienti che nel mio mondo non si dovrebbero tanto frequentare, personaggi che io reputo un po' loschi, un po', insomma, che le cose tanto corrette non le combinano. Io invece sono famiglia borghese, abbastanza benestante, e ho studiato fino a 26 anni all'università, e quindi insomma un mondo completamente diverso, cioè io certe cose le ho scoperte ora con lui che succedono nel mondo, e quindi questo mi spaventa, però c'è un'attrazione fortissima, quella che io penso di non aver neanche mai provato per un uomo, neanche con mio marito, che è quell'attrazione che quando vedi la persona non gli resisti, cioè non c'è modo di sfuggire a questa cosa. Prima volta l'abbiamo fatto dopo però un mese che ci conoscevamo, che ci frequentavamo, e l'abbiamo fatto in un albergo. Ci troviamo e ci scambiamo solo telefonate e messaggi per telefono, perché lui non è che utilizza il computer. Il telefono è mio, quindi il telefono rimane sempre con me, e cerco, per dire, se prima magari poteva succedere che lo lasciavo da qualche parte, ora è assolutamente impossibile, cioè il telefono è sempre con me e ha la vibrazione, in modo che, cioè, nessuno si può accorgere se mi arriva un messaggio o una telefonata. Io ho un lavoro che sono sempre stata molto libera, autonoma negli orari, negli incontri, quindi, cioè, riesco bene anche a gestirmi questi incontri e questi orari. Mio marito uguale, perché fa un mestiere per cui è molto spesso via, e quindi non è che mi risulta difficile. L'unico problema che ho è che vivendo, io non sto in una grande città, sto in un paese, quindi vivendo in un paese e nei paesi limitrofi tutti ti conoscono. I know you should go where I suppose you would go to. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non so perché, per quale atroce scherzo dell'equivoco, ma proprio per il fatto che alla fine del mio viaggio dico che ci sarà sempre una donna che aspetta alla fine del binario, mi scrivono tante donne. mi scrivono e mi sottopongono i loro problemi amorosi, e nessuno al mondo è meno adatto a consigliare una donna in cose amorose quanto me, che sono sempre interessato alla distruzione di ogni rapporto, alla sottile e malefica insinuazione che uccide e mina la base ogni rapporto. Perché? Ma non so, forse perché sono invidioso degli altri uomini, in assoluto. Ogni uomo lo è e nessuno lo ammette. Beh, questo caso è una cosa che assomiglia a quegli innamoramenti fatui, fatti osservando foto, leggendo status su Facebook, fatto attraverso un amore fatto soprattutto di supposizioni, di illusioni, di costruzioni fittizie, come spesso accade. Una cognata, quasi cognata, consiglia la meno avvantaggiata sorella del suo fidanzato di cercarsi un ragazzo in Facebook, e questo naturalmente sarà per entrambe fatale. Caro Gianluca, la mia storia riguarda la mia attuale relazione e il modo in cui ha preso forma. Qualche anno fa ero fidanzata e avevo stretto una forte amicizia con Veronica, la sorella del mio fidanzato. Veronica è una ragazza carina e intelligente, ma sfortunata in amore, al punto che la sua ricerca del fidanzato era diventato ormai un po' lo sport di famiglia. Da tempo, tra le varie amicizie su Facebook, avevo individuato colui che ritenevo perfetto per lei. Un ragazzo intelligente, surreale e divertente, ma allo stesso tempo concreto e passionale. Un po' più grande di lei, giusto quindi per farla sentire un po' donna e un po' ragazzina. Cominciammo a leggere insieme i suoi status, un po' come due adolescenti, a guardare il suo diario, e più leggevamo, più io la convincevo che lui era esattamente ciò che cercava. E infatti lei se ne convinse, tanto da decidere di andare a trovarlo nell'agenzia di comunicazione in cui lavorava. Stabilimmo insieme come si sarebbe vestita, persino il colore del rossetto. E l'incontro andò decisamente bene, perché lui rimase sorpreso positivamente da questa ragazza simpatica e spigliata che lo aveva contattato per avere informazioni sul suo lavoro. Lei, per contro, ne fu rapita totalmente. Iniziò uno scambio di messaggi su Facebook, di cui Veronica mi metteva continuamente a conoscenza. Mi inviava le mail e i messaggi che si scambiavano perché giudicassi la situazione e le dessi consigli. E devo dire, sinceramente, che tifavo per loro perché li trovavo molto compatibili davvero. Lei arrivò a fargli capire chiaramente che era interessata a lui. Per me era fatta, anche se lui nelle sue risposte, pur essendo affettuoso, rimaneva un po' freddino alle dichiarazioni di lei e non si sbilanciava più di tanto. Ecco, siamo arrivati all'esito già da me profetizzato poco fa. È stato trovato finalmente il pollo da spennare. Osservando la sua esposizione nella virtuale vetrina delle foto, che sono sempre le migliori, dei selfie, delle frasi importanti fotocopiate e incollate da qualche altra parte, e improvvisamente qualcosa non funziona. Già, ma perché non funziona? Non ricordo esattamente che cosa sia successo. Forse scrissi un commento ad un suo status sul suo profilo Facebook, a cui lui rispose. Questo innescò un dialogo semiserio e divertente, che mi diede un certo gusto. Non so spiegarmelo, ma forse l'aver tanto parlato di lui, l'aver tanto decantato le sue doti alla mia amica, iniziò a farmelo vedere in modo diverso. Interessante lo era sul serio, e intelligente, e qualcosa di più. Ma era il ragazzo che piaceva alla sorella del mio fidanzato. Un pastrocchio enorme. Provai a non pensarci, ma leggere cosa scriveva e guardare le sue foto era una cosa a cui non sapevo resistere. Non passava un giorno che non pensassi a lui. Poi le cose con il mio fidanzato, che non andavano benissimo, sono precipitate e peggiorate anche dalla mia distrazione più che evidente. Fino al punto in cui ho deciso di lanciarmi. L'ho invitato per un caffè e da quel caffè sono passati 3 anni insieme. Ovviamente tutto ciò all'epoca scatenò un putiferio. Già dalla mia amica e sorella del mio ex, quando lo scoprì, ovviamente si infuriò e si amareggiò moltissimo, mi tacciò di falsità e di doppio giochismo, mi fece anche sapere che mentre lui usciva con me, continuava comunque a mandare messaggi a lei. Insomma, sicuramente non mi sono comportata bene con la mia amica, non sono stata trasparente e onesta, ma veramente all'inizio non avevo alcuna intenzione, mi creda, di soffiare il ragazzo ad un'altra, meno che mai a questa ragazza a cui davvero volevo bene. Per me l'amore è una conquista. E in fondo non avrei vissuto la storia felice che ho adesso se non avessi combattuto. E se mi fossi tirata indietro tra loro due, non sarebbe comunque nato nulla. Come poi lui stesso mi ha confessato. Quindi cosa avrei dovuto fare? Buttare dalla finestra la felicità per una manciata di correttezza? Che ne pensa? Attualmente negli amori virtuali vince chi più velocemente passa dall'aspetto ideale all'aspetto concreto. In questo caso c'è stata una sorta di corsa alla vittoria della fidanzata del fratello, che in realtà si era messa da parte una riserva amorosa, passionale, sensuale per un rapporto che già vedeva finito. Probabilmente nella ricerca e nel consiglio della sorella del suo fidanzato già stava mettendo le mani avanti per trovare il passo successivo, la boa su cui saltare nel difficile guado della vita in cui abbiamo sempre bisogno di un punto fermo, e lei l'ha trovato, l'ha soffiato all'altra, ma che importa? Chi si pone scrupoli, chi si pone problemi di fronte alla realizzazione della propria passionale felicità? Non esiste assolutamente nessun limite, sia essa sorella, amica, è fidanzata di fratello, sia essa anche la persona con cui uno probabilmente ha deciso di dividere la vita. Non si guarda in faccia a nessuno, esiste soltanto il nostro rapido, efficace e profondo soddisfacimento. La famille des aiguilles, c'était pas du joli.